molto più carine troverà. Facciamo il ritorno a casa. 3, 2, 1. Puntata numero 8 di Firenze in vacanza. Vizi e virtù dei fiorentini in ferie. Perché noi fiorentini non li lasciamo proprio in pace, neanche quando se ne vanno in ferie. Anzi, quando vanno in ferie spesso sono nostri vicini di ombrellone o di baita, dipende uno dove va, o di posto nel museo a guardarsi un Rembrandt. E pertanto, quando siamo in presenza loro, tanto ci sgamano dall'accento, ma perlomeno facciamogli vedere che siamo gente rifinita, che siamo gente culta e che è gente che perlomeno è degna di dargli di vischero, perché ogni tanto se lo meritano anche i cittadini e se lo meritano anche i fiorentini. E questa è la puntata finale di questa breve serie estiva di cui è stata protagonista la fiorentina delle fiorentine delle fiorentinissime, che è Laura. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Giorgio, siamo arrivati alla fine dell'estate, ai noi. Ha segnato una generazione la canzone dei Righeira, l'estate sta finendo e effettivamente siamo a questo punto. Comincia a fare più freddo, si sta in casa con i pantaloni un po' più lunghi, ci si mette i calzini perché scalzi comincia a fare freddo ai piedi, e questo avviene perché, o anche perché siamo ritornati a casa. Il fiorentino che torna a casa. Io a casa ci sono stato, c'è le zucche ora andavano governate, che facevo? Le lasciavo ai cinghiali. Ma i fiorentini, per fuggire al caldo, all'afa, per fuggire alla noia, per fuggire al caos, al traffico, se sono andati da qualche parte, ma senz'altro non a Firenze. E allora, Laura, com'è ritornare a Firenze? Come a Firenze al ritorno? Senti, già l'aria fiorentina, anziché quella di mare, mi ha fatto venire la tosse. Si stava meglio. Vabbè, ovviamente è un po' uno shock per tutti la fine dell'estate, dai, dimmi chi non ama la vacanza. Chi? Mi ricordo la scuola e ho ricordi piuttosto drammatici. Vabbè, la prima cosa scioccante è puntare la sveglia la mattina per andare al lavoro, ma questo non solo per il fiorentino. Il fiorentino ha l'incognita in più, che è quella del traffico, cioè i mille lavori, i cantieri, i cambi di sensi unici, i nuovi semafori. Come avranno modificato il percorso che mi porta al lavoro? E soprattutto, quanto impiegherò adesso per andare a lavorare? E questo è da valutare prima dell'apertura della scuola e dopo. E quindi, ecco, ci sono due step nel rientro. Il primo rientro è un po' più soft, perché il traffico ancora non è al top, in quanto i bambini ancora non vanno a scuola. E poi dopo, insomma, dal 17 in poi, 18, siamo tutti. Allora, una città è un organismo vivo, lo dicono praticamente tutti gli urbanisti, e chi vive in città spesso e volentieri racconta di vederla cambiare e mutare, tanto che quando si va in vacanza magari si torna e la città è diversa. Per Firenze questo avviene, ma solo in funzione dei lavori pubblici. A maggior ragione in questi ultimi anni, ha voglia lavori pubblici. Guarda, fai un salto alla stazione, guarda com'è cambiata, con tutti quei bellissimi tralicci, questi pali della tranvia, come la rendono esteticamente gradevole. Non dimentichiamoci, insomma, che con i fiorentini è importante dare un paio di bordate alla tranvia, altrimenti neanche ci hanno. Ogni argomento che trattiamo alla fine, cioè, tocca sempre questo tema, caldo, caldissimo. E dicevi che il traffico impazzisce al momento che apre le scuole. Non ci avevo mai pensato. Ma come no, dai. È una frase tipica del fiorentino che rientra dalla vacanza, no? Va a lavoro, arriva in ufficio, dice: ma no, oggi un traffico. E il collega risponde: ora, intanto ancora si scorre abbastanza bene. Pensa quando riaprono le scuole. Questa è proprio una frase che senti in tutti i luoghi del lavoro a settembre, quando si rientra. per chi è stato lontano da Firenze, cioè praticamente tutti, insomma, ne rimane pochi e molti sono immigrati. Per chi è stato lontano da Firenze e quindi è stato lontano dal caos, dal traffico, dal rumore, dalla gente, dai turisti. Ora vabbè, se uno è andato a New York si è buttato dalla padella nella brace, ma insomma, per chi ha fatto vacanze al mare, in villeggiatura, ritornare e sentire tutto sto rumore, la gente, i lamenti, le code. Oh, oddio, su, non dipingere Firenze come veramente un... una Bangkok italiana, dai. Un po' esagerato. Alla fine ci piacciono queste Firenze, quindi insomma tutto ciò è anche gradevole. E il cinguettio degli uccellini ce l'ha venuto a noi, insomma ci mancava un po' di, di rombo di motore. Scherzi, insomma dai, un pochino di clacson, un po' di caos, un po' di sana confusione, perché no? Quindi a un certo momento che sei in vacanza un pochino ti manca. Eh sì, dalla nostalgia di Firenze. La nostalgia di Firenze c'è sempre quando te ne allontani. Cioè poi magari insomma ti passa subito quando rientri stai in coda, però poi passi davanti a Piazzale Michelangelo e lo guardi il panorama e niente, ti senti in pace e via. Come è considerato a Firenze il parlare delle proprie vacanze? Ossia, oggi va tantissimo di moda e fanno le fotografie, fanno le storie su Instagram e mandano i messaggi qui, e praticamente delle ferie si sa persino quanto sono andati al gabinetto. Ma nel parlare con le persone, oppure in città, magari questo si usa qui in provincia, come funziona? È quasi savonarolescamente preferibile non dire, oppure insomma piace al fiorentino raccontare delle sue ferie? Piace. Allora, innanzitutto ben vengano i social, ben vengano le foto, perché uno le mette, poi chi vuole se le guarda e chi non vuole non se le guarda. Prima di questo ricordati c'erano le diapositive, cioè ti invitavano a cena gli amici e ti schiaffavi lì davanti al muro. Era molto anni 80, però per me è un ricordo veramente tragico, cioè stare lì a mostrare interesse. Era fallosissimo! Appunto! Però la vacanza va documentata per forza, quindi meglio guarda che ci siano i social adesso, perché perlomeno è tutto più rapido e meno noioso, insomma, cioè dovevi mostrare interesse tu che eri stato in qualsiasi posto e dovevi per forza dire cosa avevi fatto, cosa avevi visto e mostrare insomma i vari luoghi che avevi visitato per forza. E anche oggi è così, insomma, torni in città e devi dire cosa hai fatto, cosa hai visto, e ti devi anche lamentare un po' di insomma fiorentino, poi una nota negativa ce la devi mettere. D'accordo. E poi deve comunque esasperare sia i lati positivi sia i lati negativi, perché insomma abbiamo un bel modo di raccontare le cose, allora ci mettiamo del colore e forse esageriamo un po' per rendere i racconti più divertenti, dai, meglio così che un mero resoconto della vacanza magari con tanto di diapositiva, dai, meglio. Qui da noi, non so, probabilmente è molto contadino, ma oggi proprio grazie ai social, oppure qualcuno che un tempo le diapositive non ce l'aveva e le ha sempre sognate e poi per rivalsa sociale lo sta facendo oggi, e cioè di fare vacanze sempre più esotiche, sempre più lontane, sempre più incredibili, in modo tale da stupire continuamente gli astanti al ritorno dalle ferie. Avviene anche a Firenze? Sì, ci sono questi personaggi che sono stati a Bali, sono stati a Tokyo, sono stati a San Francisco, poi non sono mai stati né a Cortona né a Volterra. E guarda, questo l'ho imparato ultimamente, di apprezzare molto più il racconto di qualcuno che è stato a Anghiari anziché il racconto di chi è stato in Namibia, perché insomma non è che più lontano vai e migliori sono i posti, anzi insomma molti bellissimi posti sono vicino a noi. Lo cantava Toto Cutugno, che alla fine l'America sta qua, e forse aveva ragione. E siccome sta qua, quelli che sono rimasti a Firenze, quando i fiorentini che non sono rimasti a Firenze tornano e incontrano costoro, che avviene? È una controtendenza, secondo me sta prendendo piede. Guarda, parlavo con un giudice, insomma anche una persona facoltosa, quindi avrebbe potuto fare chissà quale viaggio. Dice: io la settimana di Ferragosto volutamente rimango a Firenze e me ne vado in giro in bicicletta, perché apprezzare anche la città semideserta dell'estate inizia a essere rivalutata come tendenza. Effettivamente, guarda, perché no? Arrivare nei posti velocemente, usare appunto la bici o andare anche a piedi. Quindi non è più visto come sfigato il fiorentino che è costretto a passare agosto in città. Anzi, oddio, io ho passato qualche giorno, un pochino sfigata mi sentivo, sai perché? Perché non c'era un ristorante aperto. Qualcuno piace, però guarda che non c'era un ristorante aperto, era veramente difficile trovare un negozio, niente, vabbè. Forse non sai cosa devi fare prima provviste per l'estate. Mamma Coppa sarà rimasta aperta anche la notte. Sì, vabbè, qualche supermercato sì, però il ristorante. Quindi fai provviste e mangi a casa. Vabbè. Esci il giorno in bicicletta, allora l'agosto fiorentino così è perfetto. Insomma, incredibile ma vero, un ribaltamento di paradigma. Oggi rimanere a Firenze la settimana di Ferragosto sta diventando addirittura fico. Incredibile, incredibile. È vero, è così. Gli studenti premono alle porte, le maestre contentissime di tornare a scuola, i vigili contenti perché faranno tante più multe, quelli dei lavori pubblici, non lo so, respireranno tanto più smog, ma insomma, quest'estate fiorentina si è conclusa, era cominciata coi fuochi e ora finisce coi botti o con le botte, perché insomma, sull'autobus o sulla tranvia tutti pigiati, lamentiamoci un po', si rischia di dare vita delle contese fisiche. Laura, grazie di essere stata con noi per quest'estate e di averci portato in giro insieme ai fiorentini. È stato un piacere, grazie a te per questa bellissima esperienza e grazie a tutti gli ascoltatori. Non vi rimandiamo a una prossima fiorentinata, perché almeno le fiorentinate estive non ce ne sono più, però vi rimandiamo a Firenze.